prima non volevo invocare il ruolo delle segreterie dei partiti. Immaginavo. Volevo solo far notare che lo strumento straordinario delle primarie, quando lo si utilizza, lo si deve utilizzare in maniera governata. Mi fa un po' sorridere che a seguito delle primarie noi scopriamo di aver eletto persone che casomai hanno, appunto, sono in mezzo a un rinvio giudizio o addirittura in odore di relazione poco pulita con qualche ambiente della società italiana. Basterebbe solo che le persone che concorrono alle primarie fossero selezionate in maniera cristallina, tutto lì. Dico solo che partiti forti hanno due aspetti: non hanno paura di aprirsi al giudizio degli elettori e alla loro scelta, ma allo stesso tempo si assumono la responsabilità di offrire agli elettori una proposta pulita, linda e cristallina. Ecco, questo è un primo punto. Richetti, mi scusi, la scelta di candidare, a proposito di rottamazione dintorni, Rosy Bindi in Calabria, è stata una scelta azzeccata a suo avviso? Io avrei preferito vederla correre in Toscana, ma questo... Perché questo naturalmente forse per per gli ascoltatori, perché la Toscana è il suo bacino di fatto. Sì, nel senso che io sono presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, no? Ma non è che ho corso a Piacenza, a Rimini o in altre, ho corso nella mia città, nella mia terra, in mezzo alla mia gente, mi sono sottoposto al giudizio degli elettori con i quali ho una relazione ormai da alcuni anni. Penso che sarebbe stato logico aspettarsi questo, insomma. Dopodiché Rosy Bindi è passata dal giudizio popolare degli elettori del PD, ne ha avuto riscontro positivo, bene che sia candidata.